Sabato Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. L'atteggiamento verso la nuova maggioranza è sintetizzato da Carminati a Buzzi in una frase che non è particolarmente elegante, come del resto di solito l'eloquio di Carminati, ma che citiamo fra virgolette. Dobbiamo vendere il prodotto, amico mio, bisogna vendersi come le puttane adesso. E alle ulteriori difficoltà prospettate da Buzzi, ancora Carminati, virgolette, allora mettiti la minigonna e vai a batte con questi, amico mio. Eh sì, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, questo è solo un passaggio del procuratore Pignatone di Roma che racconta di questa cupola incredibile, mafiosa a Roma, di un intreccio tra politica e affari e mafia che ha portato oggi a 37 arresti, un centinaio di indagati, tra cui anche l'ex sindaco Alemanno. Ne parleremo di questo fatto perché è davvero un'inchiesta senza precedenti e voi potete dire qual è la vostra impressione di fronte a questa cosa così enorme, la fascio mafia l'ha definita Lirio Abate, che poi dovremo sentire più tardi, e poi parleremo anche degli sviluppi sul caso del piccolo ucciso a Ragusa. La madre poco fa è stata risentita in questura perché ci sono dei dubbi sulla ricostruzione di quando il bambino è stato accompagnato a scuola, di quando è scomparso. Poi ci andremo, e anche sul processo per la Concordia con Schettino, che rischia 20 anni di carcere. Poi capiremo perché. Per voi lo sapete, sempre due canali per intervenire sono la pagina Facebook di Effetto Notte oppure messaggi SMS al 349-238-6666, e vediamo come è andata complessivamente la giornata. Inchiesta della Procura di Roma, retata bipartisan nella capitale per l'intreccio tra mafia e appalti, indagato anche l'ex sindaco Alemanno. Il bimbo ucciso a Ragusa, indagato come atto dovuto il cacciatore che ritrovò il corpo del piccolo, Loris giallo sugli slip ritrovati oggi, e la madre sentita in questura per alcuni chiarimenti. Riforma elettorale, Renzi dice via libera all'Italicum, ma può andare in vigore dal 2016, non è collegato alla riforma del Senato. Il processo per il disastro della Concordia, Schettino rischia 20 anni di carcere. Monito della Corte dei Conti sull'evasione fiscale, norme contrastanti, manca una strategia. Israele, il primo ministro Netanyahu silura due ministri e annuncia immediate elezioni anticipate. Rifiuti, la Corte europea multa l'Italia per 40 milioni di euro a causa del ritardo sulla messa in regola delle discariche. E per il calcio, Lazio-Varese 3-0, i biancocelesti si qualificano agli ottavi di Coppa Italia. E partiamo quindi dall'inchiesta della Procura di Roma, Terre di Mezzo, così si chiama, dalla quale emerge una nuova cupola, 100 le persone coinvolte, anche l'ex sindaco della capitale, dicevamo Alemanno. Sentiamo di cosa si tratta e quali sono state le reazioni. Un'operazione che sta scuotendo il sistema politico imprenditoriale romano, quella scattata stamattina su input della Procura, che ha portato a 37 arresti e all'iscrizione nel registro degli indagati di un centinaio di persone, tutte, in un modo o in un altro, legate a una criminalità rimasta sommersa fino a oggi. Il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, parla di una nuova mafia. Questa organizzazione usa il metodo mafioso, è un'organizzazione mafiosa, che noi abbiamo definito mafia capitale. A capo di questo sodalizio criminale, Massimo Carminati, il cecato, un passato nella banda della Magliana e negli ambienti della destra eversiva, lui l'uomo al comando. Accanto a Carminati sono stati individuati uomini chiave nel settore della politica e nell'economia, capaci di infiltrarsi nelle stanze del potere senza differenza di colore politico, a cominciare dall'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno, indagato per associazione mafiosa. Unico obiettivo i soldi, attraverso la gestione degli appalti, ottenuti grazie alla corruzione e attraverso attività illecite, dall'usura alle estorsioni alle false fatturazioni. E l'inchiesta, dicono gli inquirenti, è solo all'inizio. Monica Ceravolo, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Si dice estraneo ad ogni addebito Gianni Alemanno, quello dell'ex sindaco è il nome più noto fra quelli dei politici finiti nell'inchiesta sulla mafia di Roma. Uscirò a testa alta da questa vicenda, chi mi conosce sa che le organizzazioni mafiose e criminali le ho sempre combattute a viso aperto e senza indulgenza, afferma Alemanno. A dirsi estranei ai fatti sono anche l'assessore comunale alla casa, Ozimo, e il presidente dell'assemblea capitolina, Coratti. Entrambi indagati, i due esponenti del Partito Democratico hanno comunque deciso di dimettersi in attesa di chiarire la loro posizione, un gesto apprezzato dal sindaco Marino, che si dice fiducioso nel lavoro della magistratura, alla quale chiede di fare piena luce sulla vicenda. Lo stesso fa anche il governatore del Lazio, Zingaretti, secondo il quale è un quadro inquietante quello che sta emergendo dall'inchiesta. Mafia Capitale è una realtà che non si può ignorare. Desta una grandissima preoccupazione la gravità dei reati contestati e i legami emersi con politici e manager pubblici, commenta anche la presidente della Commissione parlamentare antimafia, Rosy Bindi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi il caso del bimbo ucciso vicino Ragusa. C'è un indagato per la morte di Loris. Si tratta di un atto dovuto, però il cacciatore che lo avrebbe ritrovato. E intanto la mamma del piccolo Loris Tival è in questura a Ragusa per essere nuovamente ascoltata come persona informata dei fatti. Secondo quanto si apprende, gli investigatori di Polizia e Carabinieri starebbero cercando di chiarire alcuni aspetti del racconto fatto dalla donna dopo il ritrovamento del corpo di Loris, perché pare ci sia un video in cui la mamma con la macchina e il fratellino vanno a scuola. In quella macchina dovrebbe esserci anche Loris, ma sembra che non ci sia. Comunque più tardi sentiremo quali sono le ultime novità. A Grosseto intanto oggi c'è stata una nuova udienza del processo per il disastro della Costa Concordia. È stato ascoltato l'ex comandante Schettino, unico imputato, che ha detto la sua verità. E l'intenzione del procuratore, come ha fatto sapere, è di chiedere per Schettino una condanna a 20 anni di carcere. Anche di questo ci occuperemo in modo più specifico più tardi. Passiamo alla politica, si va avanti sulle riforme, si cerca di accelerare dopo la direzione del PD di ieri. Riforme Jobs Act ed elezione al Quirinale, tre nodi che il PD tenta di sciogliere in Parlamento con l'accelerazione sull'Italicum, ma non solo. Il governo apre ad alcune modifiche sulla seconda parte della Costituzione, non però quella sul Senato non elettivo, che viene per il momento accantonato. Il vice segretario PD Deborah Serracchiani. I cittadini hanno diritto ad avere una legge elettorale che funzioni ed istituzioni che siano efficienti. Non ci sono più alibi per alcuno. La strada è tracciata e l'obiettivo dell'approvazione delle riforme va raggiunto al più presto. Ma la stessa Serracchiani avverte sul Jobs Act: abbiamo fatto di tutto per non mettere la fiducia, adesso ci rimettiamo al governo. Sul Jobs Act invece Anna Maria Furlan della CISL vuole vedere i decreti attuativi, non basta un giorno di sciopero, dice, a proposito della CISL, ma serve una mobilitazione continua, un grande patto sociale, altro che il faccio tutto da solo di Renzi. Sul Quirinale invece smentita la candidatura di Riccardo Muti da Palazzo Chigi, ma anche dallo stesso maestro. Ognuno, dice Muti, deve fare il suo mestiere. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo adesso di lavoro a rischio, di aziende con vertenze aperte, anzi facciamo un punto sui casi aperti nelle grandi imprese. Tre vertenze, due esiti diversi e una trattativa ancora da chiudere. Giornata intensa al Ministero dello Sviluppo Economico al lavoro su tre dossier, Lucchini, Ideal Standard e Asta di Terni. Ne abbiamo parlato, ci sono dei passi in avanti importanti, attendiamo ancora gli ultimi passaggi formali. Così il premier Matteo Renzi ha commentato la prima notizia della giornata, il via libera del MISE all'offerta di Sevital per le acciaierie di Piombino. Il progetto del gruppo algerino prevede 400 milioni di euro di investimenti e l'assunzione dei 1860 dipendenti della Lucchini, quindi tutti soddisfatti. Di umore opposto chi si è seduto al tavolo per la cessione degli impianti del Standard di Orcenico in provincia di Pordenone e dei suoi 400 addetti a Ceramiche Ideal Scala. Hanno preso in giro tutti, non hanno presentato il piano, la rottura è stata inevitabile. Questi commenti all'uscita del Ministero, dove i lavori sono invece ancora aperti per un'altra acciaieria, quella di Terni. Faremo di tutto per chiudere una lotta importante, hanno detto i rappresentanti dei lavoratori. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E intanto dalla Corte dei Conti arriva una conferma preoccupante. Con questo sistema fiscale c'è un grave squilibrio tra dipendenti e autonomi. Boccia il fisco italiano, la Corte dei Conti. Uno scenario desolante. La correttezza fiscale sembra affidata più alla lealtà del singolo contribuente che a un organico sistema di regole. Non va la tax compliance, e cioè lo sforzo dell'amministrazione di favorire l'adesione spontanea all'obbligo fiscale di pagare le tasse. Bisogna mettere uno stop, dice la magistratura contabile, al fisco repressivo, e serve un cambio di strategia finora contraddittoria come le leggi fiscali nel contrasto all'evasione. Fuori controllo, superiore a 120 miliardi di euro l'anno. La Corte dei Conti demolisce la strategia di lotta all'evasione dei governi degli ultimi 40 anni. Non solo, c'è un'ingiustificata grave disuguaglianza tra autonomi e lavoratori dipendenti e pensionati. Basti pensare che proprio da questi deriva l'81,4% dell'IRPEF dichiarata per il 2011 e che sono loro che nel 2013 hanno versato il 79% del gettito IRPEF. Quindi, perché il fisco vada segno, nell'informazione del contribuente come nei controlli, la Corte dei Conti chiede l'utilizzo della tecnologia, come la fatturazione elettronica e l'obbligo di pagamento tracciato e di comunicazione telematica dei corrispettivi. Anna Marino, Radio 24, il Sole 24 Ore. E vi ricordo in tema di fisco che domani sul Sole 24 Ore ci sarà lo speciale come pagare l'IMU e la TASI, tutte le regole per non sbagliare il doppio pagamento entro il 16 dicembre. Bisogna ricordarsi queste cose. Spostiamoci intanto all'estero. Il primo ministro israeliano Netanyahu ha licenziato questo pomeriggio la ministra della giustizia Tzipi Livni e quello delle finanze Yair Lapid, entrambi esponenti del centro e che oggi hanno attaccato il governo. Netanyahu ha anche annunciato che si andrà subito a elezioni anticipate. E poi i rifiuti per quanto riguarda l'Italia, una condanna della Corte di Giustizia Europea al nostro paese a causa dei ritardi sull'adeguamento delle regole. Ma il ministro dell'Ambiente Galletti dice non pagheremo e rivendica adeguamenti sopraggiunti negli anni. 40 milioni di euro da pagare subito più altri 42,8 per ogni semestre di ritardo. In pratica alla multa forfettaria si aggiungono 237 mila euro di penalità al giorno da versare fino a quando continuerà lo stato di infrazione. Un conto salato quello che l'Italia deve pagare all'Unione Europea per le sue discariche abusive, per i siti chiusi ma dimenticati e mai bonificati, per i mancati controlli sui rifiuti pericolosi. Ma non è una sorpresa, sono ben 7 anni che l'Europa chiede al nostro paese di intervenire e di adeguarsi alla direttiva comunitaria in materia di smaltimento dei rifiuti. Già nel 2007 la Corte del Lussemburgo aveva dichiarato l'Italia inadempiente. Nel 2013 poi la Commissione era intervenuta ritenendo che il bel paese non avesse ancora adottato tutte le misure necessarie per dare esecuzione a quella sentenza. In particolare 218 discariche in 18 regioni non erano conformi alla direttiva rifiuti, 16 contenevano anche rifiuti pericolosi e per 5 l'Italia non aveva dimostrato che fossero stati oggetto di riassetto di chiusura. E nel corso dell'attuale causa sono ancora ben 198 le discariche non conformi alla direttiva rifiuti, di cui 14 non conformi neppure alla direttiva sui rifiuti pericolosi. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Aggiornamenti anche sul medico italiano di Emergency malato di Ebola. Le sue condizioni sono purtroppo ulteriormente peggiorate, lo riporta il bollettino medico giornaliero diramato dallo Spallanzani di Roma, dove il 50enne siciliano rimane ricoverato. Il paziente sta per iniziare un ulteriore trattamento con un farmaco sperimentale appena arrivato dall'estero. Per chiudere c'è il calcio con la Coppa Italia. Quarto turno, la Lazio ha battuto per 3-0 il Varese ed ora affronterà il Torino. Sassuolo batte Pescara 1-0 e ora in campo si affrontano Verona e Perugia. Poi vedremo più in là quale sarà il risultato. Intanto potete fare le vostre riflessioni su questa inchiesta incredibile che Roma ha portato a 37 arresti, 100 indagati, tra cui anche l'ex sindaco Lemanno. Si parla di associazione mafiosa. Ne parleremo tra poco con un giornalista d'inchiesta e intanto potete continuare a scrivere i vostri messaggi sia al 349-238-6666 sia attraverso la pagina Facebook di Effetto Notte. Vedo un messaggio disperato di una ascoltatrice di Milano che parla della sua casa occupata degli abusivi, lo sappiamo, è un problema purtroppo drammatico a Milano e non solo, poco in questo momento, tranne che ogni tanto parlarne possiamo fare. Tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Tra le varie notizie vedo anche che a Bologna, vi ricordate, delle unioni civili fatte all'estero, registrate poi in Italia in alcuni comuni, poi c'è stato il circolare del ministro Alfano per intimare i prefetti di annullarle. In qualche città sta succedendo adesso a Bologna, questa è un'agenzia che è arrivata in questi istanti, gay annullate, trascrizioni nozze nel comune di Bologna, che era stato il sindaco di Bologna a rifiutarsi di annullarle. Vedremo quali saranno i sviluppi. Intanto, scusate la poca voce oggi, vi ricordo quali sono le altre notizie della giornata. Mafia politica, 37 arresti nella cupola nera di Roma, in cella l'ex NAR Carminati, 100 gli indagati, anche l'ex sindaco Lemanno. Loris, mai ripreso il bimbo ucciso vicino Ragusa dalle telecamere. La madre è stata convocata in questura. C'è un giallo anche sugli slip ritrovati davanti alla scuola. Intanto è stato indagato il cacciatore che l'ha ritrovato. Renzi dice ora ok l'Italicum, ma può andare in vigore dal 2016. Clausola di salvaguardia, ma non collegata alla riforma del Senato. E poi la Corte dei Conti che boccia il fisco. Manca equità tra dipendenti e autonomi. E ancora la Corte europea che multa l'Italia per 40 milioni a causa del ritardo sulle discariche. Il governo per il momento risponde picche. E ora occupiamoci, vi dicevo, di questa inchiesta della Procura di Roma con esiti che possiamo definire clamorosi, un'inchiesta che non ha precedenti nella capitale, che è stata chiamata Terre di Mezzo, Mondo di Mezzo e che ha portato in carcere 37 persone, un centinaio sono indagate, compreso l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno per associazione mafiosa. Il procuratore di Roma, Giuseppe Pignatone, ha ammesso l'esistenza di una mafia capitale tutta romana, originale, senza dei legami con le altre organizzazioni meridionali, di cui però usa il metodo mafioso e con la quale si può anche confrontare alla pari. Ognuno nella cupola romana aveva il suo ruolo, tutti rispondevano però al capo, ovvero questo Massimo Carminati, ex NAR, dell'estrema destra, quindi legami con la banda della Magliana, che sovrintende e coordina tutte le attività, impartisce direttive, fornisce schede telefoniche per le comunicazioni riservate, individua e recluta imprenditori, mantiene i rapporti con gli esponenti delle altre organizzazioni criminali, nonché con esponenti del mondo politico, istituzionale, finanziario, con appartenenze alle forze dell'ordine e ai servizi segreti. Pensate che cosa enorme. A Roma dunque in questi ultimi anni ha praticamente agito un'associazione di stampo mafioso che ha fatto affari con imprenditori collusi, con dirigenti di municipalizzate ed esponenti politici per il controllo delle attività economiche in città, per la conquista insomma degli appalti pubblici. E vi dicevo, anche l'ex sindaco di Roma è accusato di associazione a delinquere di stampo mafioso. Lui dice: vedrete che dimostrerò la mia innocenza, io posso andare a testa alta. Insomma, naturalmente aspettiamo le evoluzioni, gli sviluppi dell'indagine. Intanto sentiamo un passaggio del procuratore Pignatone. C'è una intercettazione riportata dal giudice nell'ordinanza, che è quella che dà anche il nome all'operazione, perché secondo noi è la più significativa, quella che fa capire il senso profondo di questa associazione. Carminati parla col suo braccio destro militare, Bruggia, e gli dice: è la teoria del mondo di mezzo, compare. Ci stanno, sai come si dice, i vivi sopra e i morti sotto, e noi stiamo nel mezzo. Ci sta un mondo di mezzo in cui tutti si incontrano. E dici: com'è possibile che quello, com'è possibile che ne so, che un domani io posso stare a cena con Berlusconi? È impossibile, capito come idea? È quella che il mondo di mezzo è invece quello dove tutto si incontra. Hai capito? Tutti si incontrano là, di qualunque ceto, ma non per una questione di ceto, per una questione di mezzo, no. Allora nel mezzo anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno. E tutto si mischia. Questa è l'associazione di Carminati. Parla con il mondo di sopra, inutile credo tradurre, parla con il mondo di sotto, col mondo criminale, ed è al servizio del primo, avvalendosi del secondo, ed è soprattutto al servizio di se stessi. Clamoroso, no? Sembra quasi il mondo di Tolkien, questo degli hobbit, solo che non c'è nulla di piacevole e di fantasioso in questo. Purtroppo è dura realtà. Ne vorrei parlare con Lirio Abate. Ciao Lirio, buonasera. Buonasera a voi. Che è giornalista dell'Espresso, da 7 anni si muove sotto scorta per le sue inchieste, prima perché seguiva, prima arrivano le minacce di Cosa Nostra, oggi anche per quelle della cosiddetta fasciomafia, l'organizzazione appunto al centro di questa inchiesta di cui Lirio aveva parlato già da tempo, vero Lirio? Sì, avevamo iniziato 2 anni fa, nel 2012, a raccontare da testimonianze prese sul territorio quella che era la nuova mafia, appunto come diceva prima il procuratore Pignatone, questa mafia che non ha collegamenti con altre organizzazioni criminali di altri territori, una mafia tutto regionale, ma che vede protagonista, capo indiscusso, un ex NAR, un ex dei nuclei armati rivoluzionari che è Massimo Carminati. E avevo, con l'Espresso avevamo raccontato, facendo delle inchieste proprio sul campo, questi nuovi re di Roma, fino a raccontare poi pochi mesi fa le loro ultime avventure. Tutto questo non è piaciuto ai nuovi mafiosi di Roma, che si lamentavano di come si faceva giornalismo, o di questo giornalismo che in qualche modo li stava disturbando. Lirio Abbate, senti, in questa vicenda dicevamo, anche dalle parole del procuratore Pignatone, che c'è questo grande burattinaio che poi con la sua biografia dimostra quali intrecci incredibili, complicatissimi anche, no? Sono sul fondo di questa ultima vicenda, di questa inchiesta. È incredibile anche che fosse a piede libero fino praticamente oggi o ieri. Appunto, Carminati lo sentiamo in un ritratto, questo grande burattinaio di Daniele Biacchessi. Sentiamo. L'uomo al vertice dell'organizzazione mafiosa, azzerata oggi dagli investigatori romani, viene da lontano. Lui è Massimo Carminati, il nero di Romanzo Criminale, e la sua storia attraversa una quarantina di anni di attività politico-criminali nel nostro paese. Militante di Avanguardia Nazionale, partecipa alle manifestazioni e agli scontri di piazza degli anni 70. Denunciato e condannato più volte per rissa, violenza e aggressione, entra poi in contatto con la banda della Magliana nel 1977. È protagonista e fondatore dei NAR, Nuclei Armati Rivoluzionari, insieme a Cristiano e Giusva Fioravanti, Franco Anselmi, Alessandro Librandi, Francesca Mambro. Dalla fine del 77 naviga sulla borderline di un sodalizio tra politica, crimine politico e organizzato, logge massoniche e servizi segreti. Non c'è storia d'Italia tra il 78 e i primi degli anni 80 in cui dalle indagini non spunta il suo nome. È indagato per l'omicidio di Fausto Tinelli e Lorenzo Iannucci, due giovani del Leoncavallo assassinati il 18 marzo del 78 a Milano, in via Mancinelli, due giorni dopo il rapimento di Aldo Moro e l'uccisione della sua scorta, a pochi passi da via Montenevoso, il luogo in cui mesi dopo saranno scoperte le carte del memoriale dello statista democristiano. La sua posizione sarà archiviata nel 2000 perché al centro dell'accusa ci sono dichiarazioni di relato, cioè in terza persona, di pentiti e collaboratori. Viene poi incriminato insieme a Giulio Andreotti, Claudio Vitalone, Michelangelo La Barbera per l'omicidio di Mino Pecorelli, direttore dell'agenzia OP, avvenuto a Roma il 20 marzo del 79. Nel processo Pecorelli viene assolto, esattamente come in quello per il gravissimo depistaggio del gennaio 1981 sul treno Taranto-Milano, successivo alla strage della stazione di Bologna, insieme ai vertici piduisti del Sismi, Pietro Musumeci e Giuseppe Belmonte. Le condanne arrivano solo negli anni 90, dopo essere stato arrestato nel cavò del Tribunale di Roma di Piazzale Clodio mentre trafugava denaro e documenti dalle cassette di sicurezza di alcuni magistrati come Claudio Vitalone. La giustizia gli infligge 10 anni di reclusione nel processo Colosseo sulle attività più generali della banda della Magliana, del cui arsenale militare in una dependance del Ministero della Sanità lui possedeva perfino le chiavi. Ci si chiede come un uomo di questo spessore criminale abbia poi potuto restare sostanzialmente intoccabile per tutti questi anni, forse per la quantità di segreti che Carminati ancora oggi conserva gelosamente in quanto uno degli ultimi capi della banda della Magliana. Quindi capite che storia intricatissima e che carriera incredibile di quest'uomo che appunto è stato anche in grado poi di arrivare a piede libero anche in questa vicenda, in questa inchiesta. Com'è possibile, Lirio Abbate? Proprio perché è andato in questo mondo di mezzo, perché per tutte le cose che ha raccontato Biacchessi perfettamente si è saputo giostrare, ha saputo amministrare quel potere, la violenza, la forza intimidatrice che quest'uomo ancora oggi impone, grazie anche alle complicità istituzionali deviate, grazie alla paura di molti di testimoniare contro di lui. Immagina soltanto l'ultimo reato, come appunto diceva prima nella scheda, lui ha avuto, è stato quello di furto, è entrato dentro. Gli ha dato 10 anni, no? Per furto, cioè è entrato dentro una cittadella giudiziaria, dentro il cavo di una banca, su quel protetto, è andato a prendere alcune delle migliaia di cassette di sicurezza e chissà dentro cosa cosa c'erano, che segreti, che documenti c'erano che lo hanno portato fino ad oggi a essere libero. E la grande sfida di questa grande inchiesta, che come dicevi tu non ha precedenti giudiziari nella capitale, è stata quella dei carabinieri del ROS, della Procura di Roma, che non lo hanno portato e non lo stanno portando davanti a un giudice per accusarlo di furto, di riciclaggio, lo portano perché lo accusano di associazione mafiosa. Associazione mafiosa che insieme al gruppo di persone che lo tiene in piedi, ecco, lo porta come capo, come il boss, è proprio una organizzazione che siamo abituati a vedere in Calabria, in Sicilia, in Puglia, in Campania. Il modo di operare, il modo di comportarsi è proprio di una mafia, una nuova mafia, la mafia capitale, che non ha collegamenti con altre organizzazioni come Cosa Nostra, 'Ndrangheta o la Camorra, ma che è proprio autonoma, e così è rimasta per decenni facendo business, facendo grandi affari in silenzio, perché prima, ancora prima di questa indagine, nessuno era riuscito in qualche modo a portarli davanti a un giudice e farli processare per questo grave reato. Quindi Lirio Abate, ci mancava la nostra collezione italica dopo mafia, Camorra, 'Ndrangheta, pure la mafia romana della mafia capitale. Romana. Senti, quindi è stato particolarmente bravo Pignatone, se dici che nessuno era riuscito a portarlo davanti a dei magistrati finora? Almeno fino adesso nel provvedimento di custodia cautelare, che sono 1200 pagine, firmato da questo giudice per le indagini preliminari, e dentro ci sono intercettazioni che svelano in retroscena il modus operandi criminale di questa nuova mafia. Fino adesso eravamo abituati a dire la mafia a Roma non c'è, oppure ci sono i calabresi, ci sono i napoletani, eccetera. Invece no, tutti questi operavano con il consenso e operano con il consenso di Massimo Carminati. Ed è proprio lui stesso che si autoaccusa, non sapendo di essere registrato, e svela come attua il suo potere, la sua violenza, come riesce a manovrare politici, come riesce dai politici a farsi dare finanziamenti o sbloccare progetti, politici di destra e di sinistra. Ne abbiamo, diciamo, del centrodestra e del PD. E questo è Massimo Carminati, che tutti a Roma conoscevano, tutti sapevano, ma di cui tutti avevano paura. Oggi scopriamo una nuova mafia, ce l'abbiamo anche sulle carte giudiziarie, vedremo come andrà a finire davanti ai giudici, ma sta di fatto che quelle intercettazioni, quei dialoghi di Massimo Carminati registrati dai carabinieri non si potranno mai cancellare, rimarranno nella mente dei romani, degli italiani, e poi un giudice deciderà se è colpevole o meno, ma di fronte a quelle affermazioni in cui Carminati chiama un politico e il politico si piega ai suoi voleri, c'è poco da fare, è anche un fattore morale e sociale. Per il momento, per chiudere, Lirio Abate, Alemanno, ex sindaco soltanto indagato, questo tipo di sistema, tu hai detto che in realtà esisteva da più anni, quindi precedente alla giunta Alemanno? Sì, era precedente alla giunta Alemanno, sono decenni almeno dalle indagini che ce lo raccontano, anche sul territorio ce l'abbiamo. Per il momento Alemanno è indagato, naturalmente fino a prova contraria. Sa di fatto che comunque ogni volta che Massimo Carminati chiamava Alemanno, gli uomini vicino ad Alemanno, Alemanno faceva di tutto per accontentare Carminati, facendo nomine, consulenze, finanziando progetti, sbloccando procedure. Era uno a disposizione di Carminati. E in Sicilia si sarebbe chiamato un favoreggiatore, un complice della mafia. Qui è una mafia capitale, vedremo come andrà a finire. Il problema è che non c'è soltanto Alemanno politico coinvolto in questa vicenda, c'è anche altro che non ci saremmo mai aspettati di trovare. Davvero. Grazie Lirio Abate intanto, grazie per il tuo lavoro. Grazie a voi. Ciao Lirio. Una pausa, a tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, abbiamo parlato di Roma, la grande schifezza, si può dire, dopo questa inchiesta incredibile di cui abbiamo parlato proprio poco fa, 37 arresti, però un centinaio di indagati, anche l'ex sindaco Alemanno, un uomo, un un burattinaio come Massimo Carminati, legato all'estrema destra in passato, che è passato attraverso un sacco di inchieste incolume e che era a capo di tutto questo, di questa cupola mafiosa. Vedo Renzo che scrive al 349-238-6666, la possiamo chiamare Romafia, no? Enrico dice: questa inchiesta è la dimostrazione lampante che la mafia è a Roma. E poi sulla pagina Facebook di Effetto Notte Francesca dice: beh, se non ci fosse tutta questa corruzione della politica italiana, Massimo Carminati non avrebbe avuto questa lunga carriera criminale praticamente impunito. È certamente così. Vi riassumo però le notizie della giornata. Mafia politica, per l'appunto, 37 arresti nell'inchiesta sulla cupola nera di Roma, in cella l'ex NAR Carminati, 100 indagati anche Alemanno. Loris, il bimbo ucciso vicino Ragusa, mai ripreso dalle telecamere, la madre convocata in questura, giallo sugli slip ritrovati davanti alla scuola. E poi Renzi che dice sì all'Italicum, può andare in vigore dal 2016, la Corte dei Conti che boccia il fisco perché dice manca equità tra dipendenti e autonomi. E poi Schettino rischia 20 anni di carcere, anche di questo parleremo tra poco. Ora però invece concentriamoci sulle indagini che riguardano la morte di Loris Stivali, il bambino di 8 anni di Santa Croce Camerina, vicino Ragusa, che è stato trovato morto sabato, strangolato e poi gettato in un canale. Il procuratore di Ragusa, Carmelo Petralia, ha aperto un'indagine per sequestro di persone e omicidio volontario, ha detto di seguire due piste privilegiate, però nelle ultime ore ci sono state alcune novità. Intanto è stato indagato il cacciatore che lo ha trovato, e poi nelle ultime ore sono state trovate queste mutandine blu che in questi giorni non erano state viste, e c'è un giallo, insomma, perché adesso sono lì e sono sue, si sta facendo l'esame del DNA. E in più, e qui saluto Nino Amadore, ciao Nino. Ciao, buonasera a tutti. Che sta seguendo la cronaca di questa vicenda, c'è questa novità delle ultime, proprio di poco fa, della madre del bambino che è stata di nuovo riconvocata in questura, perché da un video che riprende la macchina della donna, della mamma di Loris, con dentro il fratellino, non appare invece Loris, che doveva essere accompagnato a scuola in quel mentre doveva essere dentro la macchina, no? Sì, la mamma sostiene di aver lasciato il bambino davanti alla scuola alle 8:30, ma le telecamere, anche se le immagini, come sostengono gli investigatori, non sono molto nitide, non inquadrano il bambino, cioè il bambino nella macchina non c'è il fratellino di 4 anni, ma lui non c'è. Sicuramente questa è uno dei tanti fatti curiosi di tutta questa vicenda. Le indagini, a questo punto possiamo dire che sono più le domande che continuano ad affastellarsi, a crescere, le domande sul cacciatore: questo cacciatore conosceva la famiglia, non la conosceva, copre qualcuno, è stato indagato, ovviamente è un atto dovuto, un atto tecnico anche per a sua garanzia, però insomma è chiaro che gli investigatori vogliono capire meglio qual è stato e quale può essere il suo ruolo. Lui dice di aver telefonato ai carabinieri, la telefonata c'è stata. Lui si dice tranquillo, fa bene a dirlo, però insomma è chiaro che molte cose vanno spiegate. Gli slip, qualche investigatore ha detto che può essere opera di un bitomane. È uscita la notizia che il bambino non aveva gli slip e immediatamente sono stati trovati questi slip a terra, che prima non c'erano, però è chiaro che va fatto l'esame del DNA, va capito insomma se sono suoi o non suoi. Penso che la mamma sapesse, può riconoscerli, no? Certo. Cioè, la mamma l'avrà vestito, non credo che ci sia bisogno dell'esame del DNA, la mamma basta insomma farli vedere alla mamma e dire erano suoi o non erano suoi. Non riesco francamente a capire come, se c'è stato un tentativo di violenza, come viene detto, perché gli slip fossero davanti alla scuola. Mi sembra un po' difficile che il tentativo di violenza si sia consumato nella piazzola davanti alla scuola di Santa Croce. Quindi potrebbe essere un atto di mitomania, come dici tu, oppure un depistaggio. Non so, a me sembra un po' strano che se c'è stato un tentativo di violenza, immagino che sia stato altrove, il bambino sarà stato caricato su un mezzo, qualcuno dice anche di aver visto un furgone bianco, non in quella piazzola, quindi qualcuno li ha portati lì, è chiaro, no? Non si trova lo zainetto, e questo è anche un altro fatto, diciamo, lo zainetto che fine ha fatto? È una può essere rilevante trovarlo, può anche non esserlo, ma sicuramente è una cosa importante. Certo è che in un paese come Santa Croce, che poi non è una grande metropoli, qualcuno avrà pur sentito qualcosa, anche a livello di pettegolezzo, anche a livello di si dice, qualcosa che possa riguardare l'entourage del bambino, non oso dire l'ambiente familiare, come qualcuno dei miei colleghi ha anche scritto in questi giorni, ma sicuramente l'ambiente, sai, nei paesi piccoli le cose si sanno, si dicono, si possono immaginare, per cui è evidente, e ha ragione il procuratore quando dice che insomma, la collaborazione deve essere più forte da parte dei cittadini. Nino Amadore, non resta che aspettare le prossime ore. Sembrava che diciamo, l'esito potesse essere più vicino di questa indagine, però naturalmente è una questione delicata, staremo a vedere. Quindi Nino, penso di sì, insomma, vediamo la mamma che cosa racconta, cosa è in grado di dire. E questa storia del video così strana. Grazie Nino Amadore. Grazie a voi, buonasera. Grazie a te, Viabilità. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui brevemente con l'inchiesta della Procura di Roma, con una retata bipartisan nella capitale per intreccio tra mafia, appalti, 37 gli arresti, tra i 100 indagati c'è anche l'ex sindaco Alemanno. E poi abbiamo appena parlato del bimbo ucciso a Ragusa, indagato come atto dovuto il cacciatore che ritrovò il corpo del piccolo, giallo sui slip ritrovati, la madre sentita in questura per alcuni chiarimenti. Riforma elettorale, Renzi dice sì all'Italicum, può andare in vigore dal 2016, e poi il processo per il disastro della Concordia, di cui parleremo tra poco, con 20 anni chiesti di carcere Peschettino, rifiuti, la Corte Europea multa l'Italia per 40 milioni a causa del ritardo sulla messa in regola delle discariche. Per il calcio, Lazio-Varese 3-0, i biancocelesti si qualificano agli ottavi di Coppa Italia. Europa 24 notte. Parliamo di Europa. Dopo 7 anni di richiami, di avvertimenti, l'Europa presenta il conto all'Italia sui rifiuti, infligge una maxi multa di 40 milioni di euro da versare subito, più 42,8 da pagare per ogni semestre fino a quando continuerà lo stato di infrazione relativo alle discariche abusive e ai mancati controlli sui rifiuti pericolosi. Un sacco di soldi, la sanzione pecuniaria più alta mai inflitta dalla Corte Europea. Non pagheremo, avverte il ministro dell'Ambiente Galletti, perché nel frattempo ci siamo messi in regola, ma per Bruxelles i progressi sono insufficienti. Per il portavoce della Commissione europea per l'ambiente, Enrico Brivio, la maxi multa va pagata. La sanzione più pesante mai inflitta dalla Corte Europea, 40 milioni da pagare subito per tutto quello che non è stato fatto in passato, più 42 milioni e 800 mila euro da versare per ogni semestre di ritardo, e cioè fino a quando continuerà lo stato di infrazione. Fino ad oggi la multa forfettaria più elevata era stata inflitta dalla Corte, sempre all'Italia, nel 2011 per gli aiuti di Stato illegali nella forma di sgravi fiscali per contratti di formazione lavoro, 30 milioni di euro, ed era il record finora. Ma il governo italiano non ci sta, non pagheremo un euro, dice lapidario il ministro dell'Ambiente Galletti. È una multa che si riferisce al passato, e nel frattempo l'Italia si è messa in regola. Sono solo 45 le discariche non conformi, dice ancora il ministro, e non 218 come invece denuncia l'Europa. E per 30 di queste la legge di stabilità 2014 ha già stanziato 60 milioni di euro. Potrà dunque l'Italia non pagare questa maxi multa? Lo abbiamo chiesto al portavoce della Commissione Europea per l'ambiente, Enrico Brivio. Ma non dare nemmeno un euro temo sarà difficile, nel senso che la decisione della Corte prevede il pagamento di 40 milioni di multa per sanzionare la mancata conformità con le leggi comunitarie nel passato, quindi dal 2007, quando ci fu la prima condanna, a oggi. C'è poi invece una parte variabile di 42,8 milioni che dovrebbe essere pagata ogni 6 mesi, e questa può in effetti decrescere man mano che le autorità italiane presenteranno delle prove che si stanno uniformando, che quindi le discariche vengono chiuse, quindi man mano che verranno inviati dei dati prima dei 6 mesi alla Commissione europea, queste poi potranno comportare una riduzione dell'ammenda, quindi una riduzione è senz'altro possibile. Il totale azzeramento temo sia impossibile. Quante sono le discariche che risultano non conformi? In base ai dati che sono stati analizzati dai giudici e che risultano alla commissione, si trattava di 218 discariche in 18 paesi. 16 di queste contenevano anche rifiuti pericolosi. E poi non ci sono state prove sufficienti su 5 di queste discariche che non risultavano bonificate come si doveva, sebbene magari chiuse. Ecco, su tutti questi punti, se le autorità italiane presenteranno delle nuove cifre, delle nuove prove, questo potrà comportare una riduzione dell'ammenda semestrale. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Come anticipato prima, concentriamoci invece sul processo per il disastro della Concordia. Oggi c'è stata una nuova udienza a Grosseto, quasi 7 ore di udienza in cui è stato ascoltato l'ex comandante Francesco Schettino, che ha raccontato la sua verità ai tribunali del tribunale di Grosseto sul naufragio della Costa Concordia del 13 gennaio del 2012. Vi ricordate, all'isola del Giglio causò 32 morti, ma anche numerosi feriti, danni ingenti, tra cui le perdite della nave e danni ambientali. E per questo Schettino, secondo il procuratore, rischia 20 anni, così Raffaella Calandra. Ciao Roberta. Ciao Raffaella. Rischia anche più di 20 anni, 22. Adesso poi staremo a vedere effettivamente quale sarà la richiesta della procura al termine della requisitoria, con il requisitoria ormai molto vicina, perché l'interrogatorio di Schettino di oggi, e che proseguirà almeno tutta la giornata di domani, poi vedremo se andrà ancora avanti, rappresenta un punto centrale di questo processo, visto che lui è l'unico imputato ormai in questo processo dopo i 5 patteggiamenti che ci sono già stati. Quindi dopo l'interrogatorio e eventualmente anche il controesame di Schettino, si entra proprio nel rush finale del processo, con la requisitoria della procura che terminerà la sua ricostruzione con la richiesta di condanna. Che tempi oggi potrebbero esserci? Gennaio per la sentenza, quindi primi di gennaio anche per la requisitoria. La procura andrà a chiedere quindi la sua richiesta di condanna. Il calcolo in base alle accuse, che sono omicidio colposo plurimo e abbandono di nave, fa a pensare più o meno intorno tra i 20 e i 22 anni per l'ex comandante Schettino, però staremo a vedere. A proposito di abbandono di nave, oggi mi pare che girasse anche un video di lui. È stato depositato agli atti e sarà molto probabilmente proiettato nell'aula del teatro di Grosseto, che è l'aula dove si celebra il processo domani. Questo video, che è stato girato dai vigili del fuoco dell'isola del Giglio la notte del naufragio, ed è un nuovo video, ritrae Schettino in giacca e cravatta, quindi che si era cambiato in attesa della scialuppa. Questo è un video che può essere importante, che secondo la procura rappresenta un ulteriore elemento a carico dell'ex comandante, perché proverebbe ancora di più, diciamo, la tesi dell'abbandono della nave, perché lui non sarebbe scivolato nella appunto scialuppa, come ha più volte ritenuto, ma avrebbe appunto abbandonato quella nave mentre le operazioni di salvataggio dei superstiti erano ancora in corso. Per di più, non aveva più neanche la sua divisa da comandante, come invece è obbligatorio fare perché sia riconoscibile il comandante di una nave. Quindi mentre la Concordia naufragava, lui aspettava la scialuppa. Questo è il senso di questo video. Vedremo quanto peserà anche nella ricostruzione dei fatti e poi, diciamo, nell'esito di questo primo grado. Senti, tutti si sono sempre chiesti chissà se avrà dei rimorsi, il tormento, al di là che poi lo ritengano colpevole o meno. Sentiamo che cosa ha detto oggi fra le varie cose. Beh, in realtà oggi Schettino, lo sentiamo tra poco, evidentemente. Schettino ha parlato effettivamente anche del modo in cui lui in questi mesi anche ha riflettuto a quello che è successo quella notte, ma soprattutto ne ha parlato andando a individuare anche quella che secondo lui sarebbe la causa di un disastro nato da una stupidata. Ha detto all'origine proprio una mancanza di comunicazione. Ritrovato, sentiamo. Non si creda che io non abbia tormento per questa stupidata, perché in effetti è stata la genesi che ha portato a un disastro è una stupidata, dove con un po' di coscienza bastava parlare e dire la cosa. Quindi se ci fossero stati dei dubbi su quel, perché io ho cercato in tutti i modi di giustificare anche gli altri, e questo purtroppo è stato quello che nei miei mesi di 6 mesi di arresto domiciliare, obbligo di dimora, secondo lei io che cosa ripensavo sempre. Quindi insomma la definisce una stupidata, diciamo così, poi dice che proteggeva gli altri. Sì, lui dice è mancata la comunicazione quella sera in plancia e per questo si è causato questo disastro. All'origine di tutto, dice anche un passaggio importante, che quello dell'inchino era una prassi commerciale dell'azienda, per questo si era avvicinato così tanto al Giglio. Grazie Raffaella Calandra, ci sentiamo tra poco. Ciao.